Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata, era Deborah Rosciani, ben trovati ad un nuovo appuntamento con Salva Danaio. Ieri in borsa era tornato un po' di sereno, oggi i mercati europei scendono tutti di nuovo, insomma la visibilità sul futuro è ancora assolutamente scarsa. In questi giorni ovviamente l'andamento dei mercati è largamente condizionato a quello che sta accadendo negli Stati Uniti, un mercato che attende trepidante il varo da parte dell'amministrazione Bush di questo maxi piano di sostegno al sistema finanziario statunitense, un piano da 700 miliardi di dollari che nella discussione di ieri ha trovato qualche ostacolo da parte del Partito Repubblicano, quindi forse leggermente compromesso. Vedremo cosa accadrà oggi alla ripresa della discussione. Un piano di cui il sistema ha assolutamente bisogno, ma in ogni caso, per non saperne leggere né scrivere, oggi, come vi dicevo, i mercati tornano ancora a scendere. Adesso è quasi di 2 punti il ribasso di Francoforte, di Piazza Affari, Londra e Parigi perdono 1,5 punti. Insomma, sono settimane di forte tensione per gli investitori di tutto il mondo. Figuriamoci l'animo di piccoli risparmiatori che assistono a quello che sta accadendo. Domani la storia di copertina di Plus 24 del Sole 24 Ore è ampiamente dedicata proprio a questo, ma non tanto all'analisi dei recenti avvenimenti, quelle ormai lo sapete si sprecano su tutti i giornali, quanto ad un tentativo di capire come si potrebbe ripartire. Ora che si fa? Noi, oltre a farci anticipare i contenuti di Plus, abbiamo voluto quest'oggi, per fare un lavoro speriamo utile, mettere a confronto 2 visioni particolari, quella di un gestore di fondi e quella di chi invece ha un rapporto più stretto con la realtà territoriale e in questi giorni è impiegato nel faccia a faccia con la clientela. A quanto pare adesso non vuole rischiare più nessuno e tutti sono a caccia di protezione dei propri investimenti. I nostri interlocutori di questa mattina saranno Vitaliano D'Angerio, collega di Plus 24 del Sole 24 Ore, Gianmarco Stanga, responsabile del team di MC Gestioni, e Bruno Bargiano, responsabile delle gestioni patrimoniali di Banca del Piemonte. 800240024 è il numero verde per i vostri interventi, i vostri messaggi li potete inviare al 349-238-6666. Prima però di entrare nel vivo della trasmissione e del tema di oggi, mi vorrei collegare con Roma e adesso vi spiego subito perché. Buongiorno a Gianfranco Lucifora, buongiorno. Buongiorno dottoressa Rosciani. Allora, sì, volevo spiegare per quale motivo stiamo facendo questo collegamento, perché da ieri un gruppo di risparmiatori coinvolti nella bancarotta argentina di qualche anno fa stanno di nuovo manifestando, sono tornati a farlo, non è la prima volta che lo fanno, davanti alle sedi delle principali istituzioni del nostro paese. Sono a Roma, sentite gli altoparlanti, ieri erano all'ambasciata argentina, hanno fatto anche, forse faranno oggi tappa al Ministero del Tesoro. In questo momento sono a Montecitorio. Perché questa nuova manifestazione, Lucifora? Dunque, la nostra manifestazione è dovuta al fatto che vogliamo che la politica tutta prenda maggiore coscienza di quanto fatto nel passato, perché il momento è particolare. L'Argentina subisce difficoltà dal fatto di non avere rispettato gli impegni con noi. E grazie a Dio adesso il mondo se ne sta accorgendo e vogliamo che ci sia però una concreta azione specifica da parte della politica. Lucifora, vi hanno ricevuto? C'è qualche personaggio politico che vi ha ricevuto in questi 2 giorni? I personaggi politici, noi abbiamo contattato la segreteria del Presidente della Camera, onorevole Fini, nella persona del dottor Alfano, il quale ci ha dato udienza e abbiamo presentato le nostre richieste. Ovviamente adesso, come voi, come si sa, ci sono diverse prospettive, come quello dei fondi dormienti, però noi vorremmo che la politica, io in particolare con altri pochi italiani, abbiamo purtroppo scelto anche la, vedendo cioè, tutta la questione del dottor Stock che ho incontrato 2 giorni fa, però abbiamo delle sentenze in appello positive per noi e contro la Repubblica Argentina, che viene condannata a pagare. quanto deve per i bond con cui si è impegnato. Gianfranco, noi dobbiamo sospendere questo collegamento perché quello che ci interessava questa mattina è far capire ai nostri ascoltatori come intanto ci sia un tema ancora molto vivo che la politica a cui si chiede la politica appunto di tornare ad affrontare anche quantomeno nei termini dei rapporti con il governo argentino. Detto questo, perché abbiamo voluto fare questo collegamento? Perché la situazione odierna, io li ringrazio naturalmente, li lascio continuare la loro manifestazione, perché la situazione attuale sta comportando anche la preoccupazione per molti altri risparmiatori che potrebbero rischiare addirittura di ingrossare le fila di chi già in passato è rimasto invischiato in qualche crack, Parma, Lattaciri e bond argentini, tanto per citare i più clamorosi. In questi giorni non facciamo che parlare di polizze e di obbligazioni Lehman Brothers, di obbligazioni bancarie che molti di noi, io non ne ho, ma molti risparmiatori rischiano appunto di vedersi in portafoglio, non capiscono che cosa hanno. Insomma, questo è il momento per cercare di fare un check-up di portafoglio molto accurato per evitare poi di doverci ritrovare fra qualche anno a fare queste manifestazioni perché avevamo appunto in portafoglio prodotti di investimento incomprensibili. Detto questo, magari un check-up sarà utile anche farlo questa mattina con i nostri amici qui a Salvadanaio. Adesso sentiamo la nostra scheda come punto di partenza, poi riprendiamo naturalmente con la nostra conversazione. Senso in questo momento parlare di investimento? Quali sono i suggerimenti da seguire per chi non si è lasciato travolgere dal panico? Dopo gli ultimi sviluppi della crisi finanziaria che ha visto capitolare i più grandi colossi bancari americani, sono queste le domande che tormentano grandi e piccoli risparmiatori. La fiducia è ormai agli sgoccioli e i recenti scossoni che vedono protagonisti le borse e le quotazioni del greggio non contribuiscono di certo a infondere maggior sicurezza. La tendenza, come di consueto in queste situazioni, è sempre la stessa: mettere al riparo, per quanto possibile, i propri risparmi, privilegiando obbligazioni governative o impieghi a brevissimo termine e in liquidità che hanno rendimenti netti compresi tra 3 e 4,5%. E a giudicare dalle ultime aste di bot trimestrali, semestrali e annuali chiuse con successo, attualmente sembrerebbe questa la via preferita dai risparmiatori italiani. E la scelta per il momento è stata premiata, considerato che i rendimenti hanno raggiunto i massimi livelli dal 2001. Ma se i buoni da un lato garantiscono maggior sicurezza rispetto ad altri prodotti, bisogna ricordare che la loro convenienza è legata all'andamento dei tassi, stabilito dalla BCE. Se gli indici salgono, la remunerazione offerta dai bot già emessi diventa dunque più bassa di quella offerta dal mercato e di conseguenza il loro valore si riduce. Per i più coraggiosi c'è naturalmente un'altra alternativa: andare a caccia di saldi puntando sul risveglio delle borse, che dall'inizio dell'anno ad oggi hanno accumulato ingenti perdite. Il parametro di scelta consigliato? L'utile delle società. Le strategie di investimento per chi non si è rassegnato alla difficile situazione finanziaria sono diverse: buoni del tesoro, commodity, azioni, obbligazioni societarie. Ma in attesa che si ristabilizzi lo scenario economico globale, la parola d'ordine è sempre la stessa: diversificare il proprio portafogli e non avere fretta. 800 24 00 24, il numero verde che vi dà l'opportunità di interagire con noi. Vedo già molti ascoltatori che vorrebbero intervenire di nuovo per chiederci chiarimenti sui possibili rimborsi di obbligazioni Lehman Brothers. Noi ci siamo già entrati nel merito nel corso della settimana, lo rifaremo nei prossimi giorni. In ogni caso bisognerà capire come procederà la ristrutturazione aziendale e soprattutto bisogna capire che tipo di obbligazione sia in portafoglio, se è un'obbligazione subordinata o una senior. Comunque la questione è complicata. Non è questa la sede per affrontarla, lo rifaremo. Eventualmente scriveteci all'indirizzo di Salvadanaio, Vitaliano D'Angerio, +24, buongiorno. Buongiorno, è dura oggi. È dura, è durissima, ma è dura da diverse settimane. Questa è stata una settimana molto tesa. Allora, anticipiamo la storia di domani, come affrontare la questione della scelta di investimento in un momento come sì, questo. Sì, perché noi stiamo facendo questo lavoro, plus cerchiamo non solo di analizzare e fare una sorta di mappa dei rischi di quello che sta accadendo, quindi bond, polizze, eccetera, ci abbiamo lavorato molto. Dopodiché non ci si può neanche abbandonare a un pessimismo totale, anche perché quelli con i nervi saldi in questi momenti fanno gli affari. Allora, visto che anche i nostri lettori, investitori, piccoli risparmiatori, possono avere delle indicazioni in questo senso, ovviamente con tutta la prudenza del caso, la diversificazione e profilo di rischio. Chi è molto conservativo a livello di profilo di rischio è meglio che stia tranquillo e si tenga i suoi bot e le sue obbligazioni poco rischiose. Invece chi vuole capire come muoversi in questo momento di prezzi bassi, ecco, oltre ai prezzi appunto di borsa, deve andare a dare un'occhiata anche alla liquidità che hanno in cassa le aziende quotate. Noi abbiamo cercato di fare uno screening in Europa e negli Stati Uniti su le più grosse aziende, no? Quindi siamo andati a vedere i nomi importanti, per dire la Roche piuttosto che Apple o Microsoft, che hanno tanta liquidità in cassa, tanto che alcune hanno anche annunciato dei buyback, come di recente Microsoft, un riacquisto di azioni proprie. Non solo, una cosa strana che vorrei segnalare ai lettori è che a 8 anni di distanza dallo boom della bolla speculativa high-tech internet, oggi sono un po' sdoganate queste aziende new economy, perché stranamente gli studi di grosse banche d'affari, quelle che sono rimaste, hanno dato delle indicazioni in tal senso, cioè ci sono aziende grosse come la Cisco piuttosto che Oracle che hanno tanta liquidità in cassa ed erano quelle più bistrattate fino a qualche anno fa. Beh certo, perché probabilmente lo boom ha fatto anche fare un bel po' di pulizia in questo settore, quindi adesso sono rimasti evidentemente proprio le società più solide. Certo. Quindi insomma l'obiettivo di Plus è di indicare un ritorno ai fondamentali, una missione che si era persa tra gli investitori. Infatti in è poi il titolo della nostra copertina, tornare ai fondamentali, guardare al sodo, andare a vedere chi fa utili, quanta liquidità in cassa, al di là dei roboanti annunci che si potevano fare fino a qualche anno fa. Io, prima di sentire Gianmarco Stanghe e Bruno Bargiano, sento Roberto da Verona, che saluto. Grazie Roberto, benvenuto a Salvadanaio. Pronto? Roberto, eccoci. Pronto? Sì, Roberto, non ci faccia perdere tempo perché ne abbiamo già poco stamattina. No, io adesso lo sento. Io torno sull'argomento di queste settimane. Volevo sapere una cosa prima di parlare per il futuro. Adesso che la Goldman Sachs e JP Morgan sono sotto il cappello della Fed, perché sono passate da banche affari a banche commerciali, c'è da stare tranquilli, sicuri, al di là del nuovo piano di Bush, se verrà approvato o non verrà approvato, o c'è ancora da temere? Roberto, bella domanda. Se noi lo sapessimo, certo che la certezza non è di questo mondo, e questa è la grande lezione che abbiamo appreso in queste settimane durissime. Però insomma giriamo la nostra considerazione a chi sul mercato opera tutti i giorni. Gianmarco Stanga, responsabile del team di MC Gestioni, buongiorno. Buongiorno. Allora, dobbiamo stare alla larga dalle banche adesso, proprio a 360 gradi, oppure anche qui come si fa ad operare una selezione? Insomma, le iniziative che vengono prese dalle autorità oltreoceano sono sufficienti, almeno in questa fase, a rassicurare gli investitori? Si sta facendo tutto per rassicurare gli investitori, soprattutto sul comparto finanziario. Penso che oramai la Fed, in congiunzione naturalmente con lo Stato americano, stia operando tutte le leve possibili, dall'iniezione di liquidità, discount windows, dalla selezione naturalmente di investitori internazionali, vogliamo naturalmente la Cina, la Mitsubishi Financial di turno e così via, per poter naturalmente rasserenare il pubblico degli investitori. Rimane naturalmente un impasse, che è appunto il salvataggio, naturalmente il piano di salvataggio operato e ideato naturalmente da Paulson in congiunzione con Bernanke. È, diciamo così, un po' la roncisvalle che potrebbe naturalmente tramutarsi invece in un effetto positivo su tutti i mercati, per cui, trattandosi naturalmente di una considerazione di questo tipo, io penso che è imperativo soprattutto diversificare, quindi non fare scommesse singole su titoli, assolutamente penso sia particolarmente deleterio, in congiunzione con una volatilità particolarmente esasperante in quest'ultimo periodo. Quindi diversificare, perché no, attraverso naturalmente dei piani di accumulo, comunque rateizzando naturalmente gli investitori, iniziare ad investire. Quindi entrare in questo momento in maniera graduale. Diceva prima Vitaliano D'Angerio che questo sarà un aspetto che domani affronteranno i colleghi di Plus 24 nel numero appunto in uscita con Il Sole di domani. Chi ha i nervi saldi assolutamente in questo momento può andare a caccia di occasioni di investimento. Ecco, avere i nervi saldi credo che sia anche quella caratteristica fondamentale che dovrebbe caratterizzare l'atteggiamento soprattutto degli investitori professionisti. Quindi Stanga, mi chiedo, il vostro nervo saldo dove vi sta conducendo concretamente in questo momento? Verso che aree geografiche, verso che asset di investimento? Ma tutto sommato pensiamo sicuramente che gli Stati Uniti, ad esempio, per il potenziale di crescita, naturalmente il differenziale di crescita sia un'area naturalmente da privilegiare rispetto all'Europa, per la potenzialità, per la dinamicità naturalmente anche del tessuto economico che era sempre contraddistinta. Alla larga invece dei paesi emergenti, al momento sì, a meno che uno abbia naturalmente la volontà, diciamo così, di prendere il momento positivo che potrebbe esserci naturalmente al salvataggio operato, ideato naturalmente a Boston per Bernanke. Quindi quello potrebbe essere uno strumento invece per gli stomaci un attimino un po' più forti, ecco, un asset class, uno strumento sul quale, diciamo così, tatticamente, ma in maniera molto opportunistica, entrare, ma sempre diversificando. L'imperativo è diversificare. Per il resto io penso che sia da privilegiare sicuramente più le large cap che le small cap in Europa. Quindi grandi capitalizzazioni rispetto alle aziende di piccole dimensioni? In Europa. In Europa. Il contrario invece naturalmente gli Stati Uniti. Ecco, magari poi le chiederò anche un commento rispetto proprio al noccio della questione affrontata da Plus domani, il ritorno ai fondamentali, quanto conta anche nelle scelte di investimento in questa fase. Prima di interpellare Bruno Bergiano, metto dentro Enrico dalla provincia di Como. Enrico, buongiorno, benvenuto. Buongiorno signora Rosciani, grazie di avermi chiamato. Enrico, però abbassi la radio per carità, perché qua ci stanno, sì, ci si sfondano i timpani. Eccoci qui. Fatto. Avevo una domanda da fare. Ipotizziamo l'evento sciagurato che il piano di salvataggio predisposto negli Stati Uniti per divergenze politiche tra repubblicani e democratici eventualmente non vada in porto, vada in porto in maniera limitata. A questo punto l'impatto quale sarebbe? Poi seconda osservazione e chiudo, diversificazione, va bene tutto, allora dollaro a picco e quindi se si diversifica sulla valuta si sopportano perdite, le borse a picco mai da anni, quindi diversificare anche lì, va giù l'America del 10, l'Europa va giù del 20, polizze unit link piuttosto che obbligazioni corporate, stiamo vedendo che cosa accade, ma è chiaro poi che il risparmiatore, a parte mille dubbi, se ne crea di ulteriori e va sui titoli di Stato. Grazie, buona giornata. Insomma, la diversificazione, lei dice alla fine della fiera diversifichiamo che cosa? Se perde tutto, andiamo al prodotto più sicuro in assoluto, che è il titolo di Stato a brevissimo termine, insomma, almeno ci può... insomma, comunque due considerazioni molto interessanti. Io le giro a Bruno Bergiano, responsabile delle gestioni di Banca del Piemonte, che saluto. Bergiano, benvenuto. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Però prima di andare al piano Bush, alla diversificazione, io mi chiedo, Banca del Piemonte è una piccola realtà, come la spiegate ai vostri clienti in questi giorni questa crisi con tutti i suoi effetti devastanti, per certi versi, per qualche patrimonio sicuramente? Sì, dipende sempre dal profilo di rischio del singolo cliente, dall'approccio che ha agli investimenti più rischiosi. Sicuramente ci troviamo di fronte a una situazione molto molto difficile, direi che è la crisi più grave dagli ultimi 60 anni, gli ultimi 70 anni. Non è facile far fronte alle preoccupazioni degli investitori, come testimoniato dalle telefonate che abbiamo appena sentito. Quello che su cui si cerca di far leva è sulla qualità dell'investimento, sulla diversificazione sicuramente, però credo di poter dire anche che in questi momenti, diciamo, di panico o di pessimismo, comunque pessimismo suffragato anche da dati oggettivi, spesso ci si dimentica di quello che è successo negli anni precedenti. Per rispondere indirettamente alla telefonata dell'ultimo ascoltatore, è vero che in questo momento la diversificazione è difficile da estrapolare con risultati positivi, perché sostanzialmente scende un po' tutto. Però in questo momento si dimentica che negli ultimi anni, negli ultimi 5-6 anni, le borse sono salite, i mercati emergenti, sia obbligazionari che azionari, hanno dato risultati assolutamente eccezionali. Quindi va sempre visto in un contesto di medio periodo. È chiaro che in un momento come questo il pessimismo... Quindi insomma, male che è andata, per chi ha avuto un atteggiamento corretto negli ultimi anni può al limite aver perso quello che aveva guadagnato se aveva diversificato correttamente, appunto, a partire magari, non lo so, dal 2000 in avanti. Esattamente, ecco. Dipende, Chiara, logicamente dipende dal profilo di rischio, dal portafoglio, da quando il portafoglio è entrato su asset class più rischiose, quelle che hanno performato meglio negli ultimi 4-5 anni, mi riferisco in particolare ad esempio ai mercati azionari delle economie emergenti, ma anche da altri mercati azionari o anche mercati obbligazionari delle stesse economie emergenti, che pur se stiamo parlando di mercati obbligazionari hanno avuto delle performance di tutto rilievo. È chiaro che bisogna vedere se queste performance non sono state realizzate, non si è venduto un po', chiaramente adesso si vede la perdita a livello psicologico sempre rispetto ai picchi massimi, bisogna sempre vedere quando uno è entrato, è questo che a livello di pubblico bisogna sempre far notare. Ecco. Il concetto del timing è fondamentale, è un termine che sarà anche antipatico perché in inglese noi preferiamo generalmente tradurli, però insomma il momento giusto per investire, però come si fa anche lì ad intercettarlo, l'italiano. Io ricordo che anni fa un professore, adesso non so, della Bocconi, della Cattolica, Cattolica mi disse che questi momenti, per chi vuole entrare con un PAC, come si diceva prima, o anche paradossalmente anche con un fondo pensione, in questi momenti è il momento migliore, perché alla fine, investendo su un lunghissimo periodo, tipo il fondo pensione a 20 anni o il PAC a 10 anni, uno comincia ad accumulare piccole porzioni di azioni o di obbligazioni in questo momento, che poi alla fine avranno un incremento ovviamente sul lungo periodo molto alto. E se uno entra con un fondo pensione o anche con un PAC quando ci sono dei picchi molto elevati, è chiaro che è più, come dire, è più facile che si abbassano i corsi, no, delle azioni. 800 24 00 24, numero verde per i vostri interventi. Non abbiamo commentato forse a sufficienza il fatto di come siamo appesi in questo momento a questo piano Bush. Se dovessero esserci delle liti furibonde nel pomeriggio fra i partiti al congresso e il piano non passasse, cosa succederebbe? Speriamo che non accada, perché siamo davvero appesi tutti lì. Eccoci di nuovo insieme, stiamo come ogni venerdì anticipando la storia di copertina di Plus 24, in edicola domani con Il Sole 24 Ore. Ovviamente si esaminano ancora in maniera molto ampia, dettagliata, accurata le conseguenze della crisi finanziaria in corso e soprattutto le conseguenze provocate dal crack della Lehman Brothers. Questo però un tema che è molto attinente ai mercati. Non so se tra l'altro vi italiano parlate anche, affrontate anche la questione dal punto di vista dei risparmiatori che hanno in mano obbligazioni Lehman. Sì, affrontiamo un po' di temi. Polizze in particolare. Quindi, e noi ci ritorneremo sicuramente anche la prossima settimana, però il tema è anche che cosa si fa adesso per chi ha altri investimenti in corso, e ne stiamo parlando con Gianmarco Stanga, MC Gestioni, Bruno Bargiano, Banca del Piemonte. Luca da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno dottoressa Rosciani. Senta, io ho chiamato perché secondo me, oltre agli interventi di carattere strutturale per la liquidità, sarebbe opportuno forse cominciare a intervenire anche sulle società che emettono i giudizi, i rating, perché non è pensabile non risolvere il conflitto di interesse su queste procedure. Io credo che il consumatore, il piccolo risparmiatore, ma anche i grandi investitori, debbano essere tutelati da un punto di vista di eventuali anche class action verso queste tipologie di operatori, perché a mio avviso non è possibile non responsabilizzare queste strutture. Grazie Luca. Io credo soltanto che un conto è intervenire quando ormai i fatti dinamici economici si sono avverati, e un conto invece pianificarli e correggerli e prevenirli. Luca, la ringrazio. Giro le sue riflessioni ai nostri ospiti di questa mattina. Credo che tra l'altro per questi aspetti siano già ampiamente sotto processo i comportamenti delle agenzie di rating, che in realtà sono tutt'altro che agenzie, perché sono delle istituzioni private che vengono ampiamente remunerate anche per assegnare i giudizi e i rating appunto alle società quotate, alle emissioni obbligazionarie, e insomma soprattutto l'operato nel caso Lehman Brothers è ampiamente oggetto di riflessione, perché con grande ritardo hanno modificato il loro giudizio su questa banca che era sull'orlo del fallimento. Gianmarco Stanga, quando lei sceglie i fondi su cui puntare, quanto conta il rating in questo momento? È diventato davvero un parametro del tutto trascurabile per la scelta dell'investimento anche da parte dell'investitore professionale? È diventato un parametro trascurabile. Lo confermo, perché comunque ne è un caso emblematico, naturalmente, anche i rating che sono stati dati a Lehman una settimana prima del default. Quindi in questo caso devo essere onesto, il rating sì interessa per quanto riguarda naturalmente la questione di regolamento, le obbligazioni, diciamo così, ecco, societarie e quant'altro ancora, in termini naturalmente di aderenza al regolamento del fondo, ma tutto sommato è una scelta di investimento, non si fa assolutamente caso a questa tipologia naturalmente di selezione del sottostante. E insomma, un problema molto ampio di reputazione, molto importante. Vitaliano, volevo aggiungere qualcosa? Mi chiedo appunto a questo punto il rating a che serve, infatti, neanche i gestori lo prendono in considerazione al momento dell'investimento, come fa il piccolo risparmiatore a orientarsi appunto in questo... Bargiano, lei cosa ne dice? Sì, sotto quel punto di vista la perdita d'immagine, soprattutto nel caso di Lehman, direi che è stata clamorosa. Perché in ogni caso, se andiamo a guardare il passato, in casa nostra, nei casi di Parmalat ad esempio, probabilmente adesso c'è un processo in corso, comunque i bilanci forse non erano così trasparenti, diciamo così. Quindi e lì era, insomma, in presenza di una truffa vera e propria, certo. Con un po' di magnanimità si poteva tendere a giustificare le agenzie di rating. Nel caso di Lima è un pochino più difficile, questo sicuramente. E qui, insomma, anche lei, ma quando... Sì. Rispondere alla domanda dell'ascoltatore in precedenza. Se piano Bush non passa. Piano americano. Sì. Nel senso piano che, Paulson, anzi. Sì, sul piano di salvataggio americano. Penso che, data la gravità della crisi, secondo me ci sono pochissime possibilità che il piano non passi. Mi sembra di poter dire che l'atteggiamento dei democratici è il frutto di puro tatticismo politico, lo definirei, nel senso che in vista delle elezioni di novembre hanno tutto l'interesse a cavalcare lo scontento popolare per un piano che in sostanza fa ricadere sul contribuente il compito di rimediare agli errori di quella che è stata l'amministrazione Bush. Però allo stesso tempo non credo proprio che gli stessi democratici vogliano avere sulla coscienza la responsabilità di aver alla fine impedito l'approvazione di un piano che loro stessi dicono che con alcune modifiche ritengono fondamentale. Infatti probabilmente proprio per questo che lei indicava, Bargiano, secondo me anche quelle che sono avvenute ieri sono niente altro che schermaglie politiche, proprio in vista, anzi in vista, visto che siamo in piena campagna elettorale americana, anche io credo secondo che sia abbastanza improbabile che non passi, perché sì, sarebbe un disastro. Dobbiamo riuscire a entrare nell'ottica che per noi magari è un po' difficile, ma gli americani sono in piena campagna elettorale e quindi sotto questo punto di vista dobbiamo cercare di valutare tutto nel complesso. Quando vediamo uno dei due candidati che dice di voler interrompere la propria campagna elettorale per cercare di aiutare l'amministrazione Bush nella predisposizione di questo piano, chiaramente c'è un discorso politico perché McCain è conscio di essere indietro nei sondaggi, però è indubbiamente un segno da un lato della gravità della situazione e dall'altro penso che il Congresso alla fine il piano lo passerà, lo manderà avanti proprio perché è un interesse comune e infatti da parte globale direi, proprio mondiale. Allora Giovanni da Roma ci fa tornare, non dico coi piedi per terra perché c'eravamo fino anche a qualche istante fa, però ci riconduce nei confini domestici perché, insomma, visto che l'atteggiamento generale è quello di cercare la massima protezione dei propri investimenti e visto che comunque molti adesso si stanno spostando sui titoli di Stato a brevissima scadenza, Giovanni, lei ha qualche dubbio anche su questi? No, non ho nessun dubbio a riguardo, perché è logico che è l'investimento più sicuro. Però io volevo chiedere, sugli investimenti, sempre per quanto riguarda i titoli di Stato di medio e lungo termine, quindi i poliennali a 5, a 10 o anche a 30 anni, che rischi attualmente si potrebbero trovare, tipo rischio inflattivo? Quindi sono degli strumenti da astenersi da fare o... diciamo sì, si possono fare con una certa tranquillità. Giovanni, la ringrazio. Beh, diciamo che in questa fase il tema dell'inflazione fosse addirittura riuscito a passare in secondo piano, però sui tassi di interesse i movimenti continuano ad esserci anche piuttosto preoccupanti. Vitaliano, avete interpellato anche qualche esperto di obbligazioni, insomma, sulle scadenze medio-lunghe, che cosa... Diciamo che ci siamo occupati di bot e di titoli governativi la settimana scorsa, proprio nel momento in cui dicevamo a bocce ferme ho dato un'occhiata ai titoli governativi di breve termine, però comunque c'è un discorso di tassi, di rendimenti da guardare, perché tutti stanno acquistando titoli di Stato, quindi come dire, che creiamo la bolla pure addirittura qua, no, quello no, però bisogna, come dire, in questo momento la gente preferisce guadagnare poco ma stare sicura, insomma, questo infatti è il concetto. Massima protezione. 10 secondi a Mario da Milano, con cui concludiamo questa prima parte di Salva Danaio. Mario, buongiorno. Buongiorno, la mia domanda è velocissima, complimenti Deborah come sempre. Grazie. Nella mia posizione fondi di questi anni mi sono acquistato dei fondi gestiti da due ex banche d'affari, insomma Merrill Lynch e JP Morgan. Sì. Cosa succederà a questi fondi? Verranno sempre gestiti da loro? Saranno cose che viaggiano su binari diversi? Grazie Mario, rapidissimo sì. JP Morgan o Morgan Stanley, perché sono due cose diverse. Sì. Morgan Stanley è banca d'affari, JP Morgan non ha problemi. No, JP Morgan anzi si è comprata proprio in nottata Washington Mutual. Mario, sì, Mario sì. C'è ancora JP Morgan? Non Morgan Stanley. JP Morgan. Sì. Allora, per quello che riguarda JP Morgan, dovremmo Morgan essere... è tranquilla, e mentre Mary Lynch è stata acquistata da Bank of America. Per cui anche lì magari ristruttureranno la divisione di investment banking, probabilmente, però Bella domanda. Bruno Bargiano, insomma, se questo cliente venisse da lei, non è probabilmente il suo, però lei li rassicurerebbe su questa diversificazione di fondi che ha fatto? Ma da un punto di vista di fondi comuni, direi che può cambiare il gestore, ma a livello di fondo comune direi... Il patrimonio è il suo, teoricamente, bisogna vedere come composto il fondo. Sì, bisogna poi vedere in particolare il fondo, ma sotto quell'aspetto non vedo un grosso rischio. Però insomma, magari scegliersi un consulente, magari indipendente, farsi fare così un punto della situazione rispetto al proprio portafoglio di investimento, forse in questa fase, se si hanno dei dubbi e delle paure, è la fase ideale. Grazie a Vitaliano D'Angerio. Grazie a te, ascoltatore. Grazie a Gianmarco Stanga, Bruno Bargiano per essere stati con noi. Eccoci ritrovati a Salvadanaio, a tempo della nostra guida alla lettura curata dal vice direttore vicario del Sole 24 Ore, Gianfranco Fabi. Un libro di economia a cura di Gianfranco Fabi. Buongiorno, benvenuti ai nostri ascoltatori, bentornati. Oggi parliamo del libro L'accerchiamento, perché si riduce la tutela sindacale tradizionale, scritto da Guido Baglioni. Buongiorno, professor Baglioni. Buongiorno. Guido Baglioni è professore dell'Università di Milano Bicocca, è presidente del Centro di Studi Economici e Sociali e Sindacali di Roma ed è soprattutto, in fondo, un grande esperto delle tematiche sindacali. Questo libro ha un titolo esplicito, L'accerchiamento, come per indicare che il sindacato in questa fase è un sindacato che viene messa a dura prova, di cui viene messa a dura prova la propria esistenza, la propria strategia, la propria presenza politica. Ecco, l'accerchiamento, perché questo titolo, Guido Baglioni? Ma l'accerchiamento nel senso che la dimensione, il volume dell'esperienza sindacale e quello che interessa più a me, più che il movimento sindacale, è la tutela del lavoro a tramite il sindacale o congiuntamente fra sindacato e legge, è molto logorata, è più difficile e si ristringe anche quantitativamente. Quali sono le cause principali? Cioè, la tesi prevalente è che la globalizzazione, cioè l'abbondanza di lavoro sul mercato mondiale, una concorrenza molto forte sui prezzi, sui costi e quindi sul costo del lavoro, e questo sarebbe normalmente ritenuta la causa determinante. Però ci sono anche altre cause che si differenziano poi da paese a paese. Per cui la principale è che se il problema della tutela del lavoro era per eccellenza un problema sociale, oggi non è più il problema sociale per eccellenza. Ecco, ma in questa prospettiva indubbiamente è cambiato il tempo, sono cambiati gli scenari, è entrata prepotentemente la globalizzazione, però è anche un problema di comportamenti e di strategie. Forse le vecchie strategie del sindacato si dimostrano inefficaci di fronte alla nuova realtà. Sì, certamente c'è un problema di strategie, tanto che io parlo di tutela sindacale tradizionale e tutela sindacale, chiamiamola per distinguerla, non tradizionale. Cosa intendo per tutela sindacale tradizionale? Quella sostanzialmente che si è sviluppata nel secondo dopoguerra, che sono i decenni nei quali il sindacato nei paesi, parliamo dei paesi industriali occidentali capitalistici di qui e di là dell'Atlantico, è più il Giappone, l'esperienza e la tutela sindacale sono diventati forti. Su quali erano, proprio riducendo all'osso, gli aspetti centrali di questa tutela tradizionale? Primo, il lavoro a tempo pieno, stabile e a tempo indeterminato. Questo era un primo fattore, una caratteristica. La seconda caratteristica, che cresceva la regolamentazione e si sono costruiti relazioni industriali sostanzialmente rigide. Una terza caratteristica è che l'azione sindacale e la tutela veniva intesa in senso acquisitivo, progressivamente si doveva migliorare, ogni contratto collettivo bene o male doveva apportare dei benefici nuovi e aggiuntivi. Ora, la situazione attuale, ma non recente, perché è già dalla fine degli anni 70 che comincia questa nuova tendenza dell'accerchiamento o della riduzione, noi abbiamo condizioni molto differenti e contratti molto diversi, abbiamo una situazione maggiore di insicurezza, molto maggiore, cioè l'insicurezza è l'opposto della stabilità. Secondo, per fare ortogonalmente le tre caratteristiche della tradizione, ora abbiamo invece, come dire, la dominanza della flessibilità, sia la flessibilità interna nell'impiego del lavoro, sia la flessibilità in entrata e anche in uscita sul mercato del lavoro. Quindi il licenziamento, che poteva essere una cosa eccezionale, parliamo di quello individuale, certo, oltre che di quello collettivo, oggi no, non lo è più, cioè è difficile che molti, soprattutto nel contesto sindacale, non si rassegnino al fatto che andiamo verso una situazione in cui il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è stabile nel settore, nei settori privati, poi c'è l'eccezione che sta a sé nel settore pubblico, non funziona più. Ecco, così come non funzionano le forme tradizionali, appunto, di presenza o di lotta del sindacato, perché in una situazione come quella nuova che si è creata, lo sciopero è un'arma in gran parte spuntata. Eppure il sindacato stenta a rendersi conto forse di questa situazione diversa e continua a puntare con armi vecchie per affrontare situazioni nuove. Professor Baglioni. Ma questo vale per il settore pubblico o per i settori protetti, cioè compreso, come dire, quello di attualità in questo periodo nel nostro paese, appunto, come dell'Italia. In Italia, come in altri paesi, il tasso di conflittualità, cioè mettiamo attraverso gli indicatori il numero degli scioperi e il numero di lavoratori coinvolti e le giornate perse, sono relativamente elevati, ancora elevati nel settore pubblico o nei settori analoghi, eccetera. Ma nei settori privati, nell'industria, nel commercio e negli altri servizi, la conflittualità è molto diminuita. È molto diffluita perché, come dire, c'è una verifica spesso sul mercato e sull'andamento delle imprese che sconsiglia, che renderebbe anche magari desiderabile a volte, ma che invece viene usata con grande prudenza, l'arma tradizionale, peraltro che ha avuto un grande significato, è stata un'arma fondamentale dell'emancipazione e del miglioramento delle condizioni di lavoro. Perché i tassi di conflittualità nei settori privati in Italia, come in altri paesi tipo la Gran Bretagna, sono molto diminuiti, anche negli Stati Uniti, che tradizionalmente era un paese conflittuale nei settori manifatturieri. Ecco, ma in questa prospettiva allora il sindacato potrà avere un futuro, potrà riprendere un ruolo protagonista, soprattutto cercando di negoziare sulle regole più che sugli interventi all'interno delle singole imprese, regole che possono essere appunto di tutela verso i lavoratori con il salario minimo, con delle garanzie adeguate, con delle protezioni maggiori verso il lavoro non tradizionale a tempo pieno. In questo senso il sindacato deve comunque trasformarsi. Professor Baglioni. Sì, insomma, in parte poi, sempre tenendo conto della distinzione fra settori pubblici e settori privati, stando a questi secondi, in parte poi la trasformazione avviene, talché il linguaggio o la retorica, come tutti i gruppi sociali, tutti i gruppi associativi, c'è una retorica, non solo quella sindacale, fra la retorica a volte del linguaggio sindacale e poi cosa c'è nei contratti, cosa c'è negli accordi, c'è una differenza. Gli accordi sono molto più aggiornati che non invece la loro interpretazione o la loro presentazione. Comunque c'è una distinzione che si sta affermando, come dire, decisamente, ed è quella fra la tutela di base, che può essere fatta per legge, per contratto collettivo o con un istituto appunto legale, che è il salario minimo, che è un'istituzione, certo, in parte in alternativa come significato, non sempre nella realtà, ai nostri contratti nazionali. e il salario minimo sta per essere, ha cominciato a essere introdotto in Germania, che è assai significativo perché la Germania era il paese da un punto di vista di relazioni industriali sindacalizzate il più forte e il più grande in Europa. Questo è destinato, questo livello di tutela di base è un dato di civiltà oltre che un dato di equità e anche di comunità per le imprese, perché hanno una regolamentazione standardizzata che favorisce la gestione delle risorse umane. Dopo di questa soglia, che può essere, come dicevamo, diversamente impostata, c'è tutto quello che nel linguaggio attuale chiamiamo in Italia il secondo livello, ma che è la contrattazione o gli interventi legislativi, come dire, che fanno una regolamentazione più specifica, di cui certamente il baricentro è quello dell'impresa. E qui il discorso più semplice che può essere fatto, ma che non è nuovo, ma che è nella tradizione dei paesi dove la contrattazione collettiva è decentrata a livello di impresa o è anche assieme a quella centralizzata, come in Italia c'è un livello di decentramento, è il rapporto fra il lavoro e i risultati dell'impresa e la situazione dell'impresa. Mentre nella tutela di base c'è una componente sociale, cioè non è, i contratti nazionali non sono fatti solo sulla base dell'economia, sono fatti sulla base di una congerie di tradizioni, certo, di valori, certo. Il potere d'acquisto, fondamentalmente è il potere d'acquisto dei salari quello che conta a livello nazionale. Ecco, dobbiamo chiudere, il tempo purtroppo passa inesorabile e dobbiamo appunto renderci conto anche del tempo. Indubbiamente esiste un problema di configurare il sindacato in una diversa prospettiva, capace di dialogare sui temi generali con i governi per fare le regole, ma capace anche di affrontare a livello locale con le singole imprese le compatibilità e le necessarie tutele degli operai. E questo in fondo la logica che smuove l'analisi di Guido Barioni, nel libro L'accertamento. Guido Barioni, che ringraziamo, professore emerito all'Università di Milano Bicocca, ha scritto questo libro L'accertamento, appunto, edito dal Mulino. Le pagine sono 270, il prezzo è di 23 euro. Un'analisi puntuale su come si sviluppa la logica della presenza del sindacato nella società di oggi. Grazie professor Barioni, grazie a quanti ci hanno seguito e grazie a Gianfranco Fabile. Se peggiorano intanto, stanno perdendo tutte oltre 2 punti percentuali in Europa. Salvadanaio torna lunedì da Deborah Rosciani. Buon fine settimana a tutti.